voluto essere un uomo incorruttibile, salvare corpi e anime dal male e dalla solitudine. Proteggere il più debole, guarire l'impossibile, un cavaliere senza macchia che non sbaglia mai. Ma se mi guardo nello specchio c'è soltanto un uomo che somiglia a me, con l'anima tra i denti e il cuore nella mano, che è solo un cuore profano, senza regole né aureole, un cuore profano che sa amare e non sa scegliere, un cuore come me. Avrei voluto essere un uomo irraggiungibile, amare senza chiedere, essere il migliore per te. Per te. Far ridere chi è triste, curare chi è più fragile, il santo senza dubbi che rinuncia a sé. Ma se mi guardo dentro vedo che c'è solo un uomo che somiglia a te, con l'anima tra i denti e il cuore nella mano, che è solo un cuore profano, senza regole né aureole, un cuore profano amare non sa scegliere, un cuore come me. E ora che forse so chi sono io, e ho fatto pace anche un po' con Dio, posso rinascere e crescere profano, senza regole né aureole, un cuore profano che sa amare e non sa scegliere, un cuore come me.